9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori, da Simone Spezzi e benvenuti a 9 in punto. Oggi parliamo della campagna elettorale, partendo sostanzialmente dall'assunto che in questi ultimi tre giorni un granché non potrà cambiare nella qualità. Molti si lamentano che sia stata una brutta campagna elettorale e in effetti un granché non è stata, fatta di promesse, di una mistica dei numeri, le coperture finanziarie per mantenere queste promesse e francamente senza lo straccio di una visione. Qualche esempio, come ci collochiamo in Europa? Non si può ridurre il tutto a siamo con la Merkel o contro la Merkel o siamo con Hollande, che poi i francesi alla fine stanno sempre da soli. Dal punto di vista fiscale non si può dire riduciamo l'IMU, la tagliamo, la rimoduliamo oppure la restituiamo, senza ragionare sul ridisegno del sistema fiscale che tenga conto di un nuovo rapporto tra i cittadini e lo Stato e il fisco che per molti versi ne è la rappresentazione. Di questo vogliamo parlare con i nostri ospiti oggi e con voi naturalmente all'800 24 00 24, l'hashtag su Twitter è 9 in punto. Naturalmente c'è anche chi dice altro, c'è chi dice oh ragazzi, le campagne elettorali sono sempre così, non c'è niente da fare, sono appunto fatte di promesse e insomma non facciamo le verginelle. Buongiorno Claudio Velardi. Buongiorno, buongiorno a voi. Spin Doctor, curatore con Fabrizio Rondolino del sito thefrontpage.it. Buongiorno Lucia Annunziata. Buongiorno. Direttore dell'Huffington Post, autrice e conduttrice di In Mezz'ora su Rai 3 e anche di Leader per questo appuntamento elettorale in onda il venerdì. E buongiorno anche a Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Annunziata, partirei da lei. Vorrei capire un attimo come la vede, come l'ha vista questa campagna elettorale. Ma intanto io l'ho visto come una campagna elettorale che è cambiata nel suo percorso, nel senso che ha avuto due o tre passaggi, uno di stile mediatico e un altro di natura politica, nel senso che è partita come una campagna, un po' una campagnuccia insomma, in cui tutti quanti dicevano vabbè dura poco, ognuno fa la propria parte, diciamo molto cauta la partenza. Poi è successo un evento di natura mediatica, come dicevo, che però ha un po' fatto sobbalzare tutti anche nella politica, e l'evento secondo me è stato l'intervento di Berlusconi da Santoro con quegli incredibili numeri, e ha fatto capire che intanto, come dire, la prima parte della campagna in cui tutti andavano in queste, così facevano questi numeretti, piccole riunioni nei cinema, era sbagliata, e ha cambiato la presenza di Berlusconi, ha cambiato sia il senso della campagna, cioè aprendola, sia ha rimesso in ballo Berlusconi. Ultima svolta, perché poi l'importanza di Berlusconi l'abbiamo vista, insomma, anche se secondo me è stata esagerata, ultima svolta è quella che è successo la settimana scorsa. Finalmente la politica si rende conto che sta facendo una campagna elettorale con un candidato di pietra, diciamo, che è Grillo. E infatti l'ultima settimana, e ancora di più questa che sta arrivando, finalmente anche da parte dei media internazionali prende atto del fatto che Grillo probabilmente rischia di essere il secondo, diciamo, partito, io ci credo che arriverà a fare il secondo partito, e quindi cambia di nuovo tutte le regole del gioco. Quindi una campagna che si è evoluta nella consapevolezza di sé rispetto a cose che non aveva calcolato. Dunque Grillo e Berlusconi, il fenomeno Grillo e l'evento televisivo Berlusconi come game changers di questa campagna elettorale. Claudio Velardi, alla fine appunto c'è chi dice tutte le campagne elettorali sono così, sono promesse, sono chiacchiere, però insomma io sinceramente sarà per la giovane età che ho, mi manca un po' di visione. No, questa è più brutta delle altre, direi, ma secondo me è un po' un percorso che si è avviato da quando abbiamo inaugurato questa benedetta Seconda Repubblica. Il problema è che i partiti si sono progressivamente blindati attraverso anche delle norme, delle leggi, due su tutte, diciamo, la par condicio e la legge elettorale. Con la legge elettorale loro nominano i parlamentari, e quindi in sostanza non c'è più bisogno di fare campagna elettorale in uno dei suoi aspetti cruciali, cioè quello che riguarda le persone, gli eletti veri e propri. E con la par condicio loro impediscono nei fatti, diciamo, lo svolgimento della, condizionano pesantemente lo svolgimento della campagna elettorale, non solo sulla TV, ma anche nei manifesti, sulle radio, eccetera, eccetera. E la politica si è blindata. E adesso questa blindatura ha raggiunto un po' il punto massimo. E qual è la conseguenza di tutto questo? Perché la campagna elettorale in sostanza non si fa, se pensa per esempio a quello che sta succedendo adesso in relativamente all'ipotizzato confronto tra i leader, la cosa è veramente clamorosa. Cioè il servizio pubblico che è la RAI, che a causa di un pesante condizionamento, quanto pare leggendo i giornali, di Bersani non promuove un confronto tra i candidati, è veramente incredibile, penso che questo non avvenga in nessun paese democratico al mondo, e questa è la ragione fondamentale, diciamo, della bruttezza e della povertà della campagna elettorale. Se aggiungiamo poi a questo il fatto che naturalmente chiunque andrà a governare grosso modo ha delle cose obbligate da fare, perché questo è quello che ci detta l'agenda, sì, europea. Il famoso vincolo esterno che in realtà permane in sostanza. Naturalmente, non c'è dubbio, quindi loro possono sparare tutte le cifre che vogliono, però poi alle prove, non appena dovessero appunto partecipare ad un confronto serio, chiunque verrebbe inchiodato appunto a questi vincoli esterni che sono indubitabili. Allora questo è il motivo per cui la campagna elettorale è brutta, perché i partiti si sono blindati. Il risultato qual è? È che Grillo diventerà, come diceva prima Lucia, il secondo partito italiano, perché naturalmente poi fuori dai partiti e dalla politica c'è una società che ribolle. Chiudiamo il primo giro di opinioni con Stefano Folli. Stefano. No, hanno ragione Claudio Velardi e Lucia, questo è il quadro che hanno tracciato, è esatto. Noi arriviamo a questa campagna elettorale con un sistema politico sostanzialmente fallito, insomma, talmente fallito, talmente incapace di autoriformarsi e di rinnovarsi, che si è appunto blindato, si è creato attorno una sorta di gabbia entro cui proteggersi, lo ha fatto. Questo produce una campagna elettorale stralunata e un po' assurda come quella che stiamo vivendo. Non dimentichiamo anche questa altra stupidaggine, secondo me, della proibizione dei sondaggi nell'ultimo periodo, no? Che è un'altra cosa che a mio avviso non sta in piedi. Sì, tra l'altro Stefano, perché poi alla fine ti ritrovi titoli come quello di oggi sul Libero, no, il Cavaliere, abbiamo superato la sinistra, e dici, insomma, ma alla fine è più fuorviante una cosa di questo genere un sondaggio vero e proprio, no? No, è tutta una follia. E all'interno di questo quadro la questione di Grillo, che diceva Lucia, è esplosa nelle ultime settimane. Ecco, questo è un ulteriore elemento della assoluta incapacità dei partiti di gestire la realtà, perché che il fenomeno Grillo esistesse, esisteva da molto tempo. Diciamo che adesso ha raggiunto un po' il suo diapason, ma che esistesse e che non fosse stato ben compreso e ben gestito dalle forze tradizionali era evidente. Che se ne siano accorti rispetto alla campagna elettorale nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, è inquietante. Questo è lo scenario in cui noi ci troviamo oggi. Ora, detto questo, è chiaro che poi le campagne elettorali non sono seminari accademici, non si può pretendere che chi fa campagna elettorale produca delle analisi finissime di economia o proponga soluzioni che siano assolutamente, diciamo, di una profondità particolare. Si va un po' per slogan, però una visione passa anche attraverso uno slogan. Un grande uomo di campagna elettorale fa passare una sua visione attraverso un'immagine, uno slogan, che è quello che è riuscito Obama per esempio in America. Ecco, questo da noi manca completamente, perché lo scenario, il quadro generale in cui si opera, in cui questi soggetti così deficitari operano, è quello che è stato ben descritto stamattina. Voglio sentire le prime telefonate, i primi ascoltatori all'800 24 00 24, in particolare su un tema come questo, appunto, che ci coinvolge tutti e sul quale, insomma, ci sembra di aver colto qualcosa che sta, una preoccupazione che sta attraversando un po' tutti. Stefano ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere questa cosa qua. Moltissimo durante la campagna elettorale si è parlato di questa rimonta di Berlusconi. però Stefano, la fermo, vediamo di trovarla in un punto dove il cellulare prenda meglio e sentiamo Fiorella dalla provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno, io posso intervenire? Certo, come no? Ah, va bene, grazie. L'ho chiamata, allora, cioè, l'abbiamo chiamata apposta. Diciamo, ho posto questo problema, secondo me la campagna elettorale in parte, non è norma, in parte non è bella neanche per come i giornalisti la conducono. Cioè, intendo che i giornalisti, io li vedo in televisione o li ascolto quasi come degli uditori di quello che viene detto. Io penso che un giornalista, quando diciamo intervista un politico, insomma, oppure da diversi politici, non potendo sapere tutto, è chiaro, cioè sarebbe assurdo, dovrebbe, diciamo, su almeno due cose avere chiaro e preparato, per poter non lasciar dire al politico quello che vuole. Il politico può fare la sua propaganda e quello può dire quello che vuole, quello che le farà nel futuro, potrebbe dire di porre tutti sulla luna, ma su alcune cose non può pensare di poter dire tutto, cioè diciamo cose assurde, finte e non vere. E io credo che i giornalisti, oltre che sui giornali, proprio nella radio, in televisione, in qualunque televisione, in qualunque radio, così non come dire, sono lì, come potrei essere io, scusate. Fiorella, no, Fiorella, chiarissima, prendiamo la critica e ce la portiamo a casa e magari poi ne parliamo. Fausto, la provincia di Perugia, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire un pochino sui contenuti della campagna. Secondo me non è proprio una campagna pessima, nel senso rispetto agli altri anni, anzi, sullo stimolo della gente, prima quella Monti, poi quella di Grillo, sono venuti fuori anche in televisione, nei dibattiti, dei punti molto importanti, no? Come reddito di cittadinanza, abolizione dell'IMU. Peccato che sono tutti i punti, dei 20 punti, che appartengono all'agenda Grillo, quindi tutti i partiti ora si stanno un po' appropriando di quello che è, di quello che è l'agenda. Ultimo Berlusconi con la non pignorabilità della prima casa. Questi punti poi sono soltanto le cose che i cittadini hanno votato in rete, quindi si rendono conto un pochino di quello che è lo scollamento tra le discussioni sterili sulle alleanze, SEL, Monti, eccetera, e i problemi reali del paese. Grazie, grazie Fausto, chiarissimo. Sentiamo anche un altro ascoltatore e poi rifacciamo un giro di opinioni. Daniele ci chiama da Treviso, buongiorno. Buongiorno a lei. Io farei un passo alle primarie del PD indietro, perché lì è nata la sconfitta del rinnovamento, nel senso che se avesse vinto Renzi, ma la stessa sinistra non ha voluto che avvenisse questo cambiamento, Berlusconi non sarebbe tornato e tanta porcheria non sarebbe ritornata a riproporsi. Questa è l'opinione di Severgnini, di tanti altri opinionisti, scrittori ed economisti, grazie a Dio. E lo si è voluto veramente distruggere il nuovo. E che cosa abbiamo ritrovato? Una campagna che io chiamo di cantastorie, cantafiave, che cercano così di ammaliare un po' gli italiani, alcuni ci cascheranno purtroppo, però di fatto proprio io sono deluso, ma io sono anche un imprenditore, sono deluso per questa politica che ci ha illuso costantemente e mi auguro che veramente gli italiani oggi sappiano, che abbiano una memoria, che tra l'altro è memoria di pochi giorni fa, di pochi mesi fa, insomma ci hanno fregato fino all'ultimo, lo stesso Monti con l'IMU che doveva salvare l'Italia, alla fin fine ha salvato i suoi amici banchieri, scusi. Grazie anche a lei. Daniele, io ritornerei da Lucia Annunziata per rispondere allo stimolo di Fiorella che ci ha chiamato, ma anche di Massimiliano che ci scrive su Twitter, è anche responsabilità della classe giornalistica che va a traino delle dichiarazioni dei politici. Insomma, non per fare quello corporativo, però non è nemmeno che possiamo dettar noi l'agenda, no? Dunque, per quanto riguarda la situazione dei giornalisti, io ringrazio Fiorella per aver detto una cosa che sento, però io mi sono data tanti anni fa la regola di non criticare i miei colleghi, Lo dico per questo, non lo dico perché voglio sfuggire a questa cosa, ma perché se siamo, prendo su di me le accuse che si fanno all'intera classe giornalistica. La cosa che non mi piace è entrare in un dibattito in cui alcuni giornalisti col ditino alzato fanno la morale agli altri. Io penso che i giornalisti sono, come dire, meglio, peggio, ma insomma preferisco tenermi dalla parte di chi è accusato che dalla parte di chi fa la morale ai colleghi. Quindi se qualcosa c'è di sbagliato e probabilmente l'abbiamo fatto, la prendo su di me, quindi non faccio nessun discorso. Invece mi interessava l'ultimo intervento, questo sì, sul PD, perché io penso che questa è un po' la storia di questa campagna elettorale. Tutti parlano di nuovo di Berlusconi, che è tornato, anche di Grillo. Giustamente Grillo, come diceva Stefano Folli, è lì da parecchio tempo, era proprio difficile non vederlo, è il classico vedere il pelo, non vedere la foresta, insomma, no? Era la foresta Grillo. Il problema non è questo, il vuoto politico intorno a cui gira questa campagna non è il ritorno di Berlusconi, è il vuoto politico del PD. Il PD ha fatto una campagna di primarie che è stata bella, appassionata, ma tutto sommato non ha voluto portarla fino in fondo sostanzialmente. Anche il fatto che Renzi sia tornato a casa, non dico per un piatto di lenticchie come ha detto la Folcan con una frase molto efficace, però è sconcertante questo modo con cui lui è tornato a casa. Io non penso che lui dovesse fare un altro partito, perché sarebbe stato ridicolo, insomma, ma voglio dire, tu non puoi fare una campagna elettorale in cui il problema è il modo con cui si pensa al partito e poi ritornare al servizio di un partito che hai criticato fin dalle fondamenta. Allora chiaramente c'è qualcosa di sconcertante, insomma. Io sono contrario alle liste interne dei partiti, ma se uno tiene un punto, insomma, no? Cioè, voglio dire, io non posso entrare in un partito che pensa sia finito, che ho dichiarato finito. Dopodiché il PD, secondo me, sulla base di questa scelta, che è stato quello di non guardare fino in fondo ai tempi nuovi, ha fatto una campagna elettorale assolutamente indifensiva. Bersani tutti dicono che è una brava persona, per carità, è una bravissima persona, ma come leader è un leader indifensiva, che ha messo tutto il partito in difensiva, che sta sempre a tirarsi indietro, incluso questa scelta delle piazze. Alcune cose sono simboliche, io so che l'attuale segreteria di partito considera una stronzata, scusate, la questione della comunicazione, ma se non ci sono, se la campagna elettorale è tutta comunicazione e uno decide di lasciare Piazza San Giovanni vuoto, di finire all'Ambra Iominelli, insomma, secondo me è una scelta che dimostra come il partito non si fidi di se stesso. Ecco, è una cosa abbastanza significativa. Io parlo di comunicazione perché naturalmente faccio la giornalista, ma la comunicazione è la metafora di tutto. Il resto, la piattaforma del PD sul rinnovamento, sul cambio, sulle alleanze, sull'Europa, è stata tutta frammentata, in difesa, incluso, vi faccio un altro esempio, il vincolo esterno, Hollande, va bene? Tutto il PD per bocca di Bersani si è schierato dietro il modello Hollande. E qual è stato il modello Hollande? Che la prima cosa che hanno fatto, hanno licenziato 6.000 operai, hanno realizzato che non si poteva fare la famosa tassa sui ricchi, e l'ultima cosa, la prima cosa, appena Finmeccanica ha chiuso per via, bloccato tutta la sua attività per via giustamente della giusta inchiesta sui vertici, la prima cosa che Hollande ha fatto è volato in India a prendersi le nostre commesse di 12 elicotteri, alla faccia di tutto, come dire, la cosiddetta internazionale socialista. Cioè il PD è il vero responsabile del vuoto politico dentro questa campagna elettorale, perché non sta guardando in faccia al cambiamento e sta raccontando un po' di cose sul piano economico per cui non ci sono i soldi. Ogni volta che andate là, vi diranno: ah, rompiamo il patto di stabilità locale, rompiamo il patto di stabilità europeo. Con chi? Con l'appoggio di Hollande? Con chi? 9 in punto. E mentre si continua a dibattere su un confronto TV che naturalmente alla fine non si farà, ritorniamo dunque a parlare di questa campagna elettorale. E volevo sentire Claudio Velardi su quello che ha detto Annunziata alla fine del suo intervento. Insomma, dice: il PD è il vero responsabile del vuoto politico di questa campagna elettorale. Che dice? Io penso che Lucia abbia perfettamente ragione. Innanzitutto, però ho solo una piccola contestazione conclusiva. È evidente che se avesse vinto Renzi sarebbe un po' tutto cambiato, tutta quanta la campagna, probabilmente non si sarebbe presentato Berlusconi, certamente il PD avrebbe potuto vincere, diciamo, le elezioni con un certo margine, cosa che invece immagino che non accadrà domenica prossima. Il suo comportamento successivo, quello di Renzi, che è stato prima un po' criticato da Lucia, io non so se, insomma, forse non poteva fare diversamente, perché se lui non fosse sceso adesso in campo per aiutare il suo partito, si sarebbero già precostituiti l'alibi tutti i dirigenti del PD per il giorno dopo le elezioni per metterlo in croce. Insomma, va bene, ma questo adesso è un fattore secondario, direi. Sul tema della comunicazione, ecco un po' il mio punto che volevo un po' discutere, perché non è vero che il PD non curi la comunicazione. La tragedia è che la cura, anzi la cura in maniera maniacale. In fondo il PD è l'unico partito che ha fatto degli spot che sono di un grigiore spaventoso, che invade le città di manifesti, che si dichiara come un partito non personalistico, ma in realtà il volto di Bersani è l'unico volto presente in campagna, perché Monti e Berlusconi con i loro volti sui manifesti eccetera non ci sono, Bersani sì. Il problema è che questa comunicazione è all'insegna dell'usato sicuro, del quieta non movere, diciamo così, perché il PD ha pensato dall'inizio della campagna di andare al governo, di vincere la campagna elettorale, di andare al governo un po' per default, sui limiti e sui problemi e sulle catastrofi degli altri. È la stessa cosa che pensò nel 2006, quando partì 6-7 mesi prima con 10 punti di vantaggio su Berlusconi e poi le elezioni quasi le stava perdendo. Questa volta le cose si stanno un po' ripetendo in maniera più accelerata, perché la campagna è molto breve, ma allo stesso modo loro hanno pensato di fare una campagna di basso profilo, grigia, all'insegna appunto dell'usato sicuro, per vincere le elezioni, come dire, per default, diciamo così. E naturalmente questo non avviene, perché poi gli altri si muovono, e quindi si muove Berlusconi, e quindi si muove Grillo, si muove fino anche Monti, diciamo, con tutti i limiti, dato che il personaggio non è uso, diciamo, a fare comunicazione nella maniera dovuta. E quindi Bersani si trova in difficoltà di fronte alle iniziative degli altri e non è in grado assolutamente di rispondere. È come una macchina che sta andando in folle, in discesa. A un certo punto la discesa finisce, però la marcia non l'ingranano più, insomma. Questo è un po' il destino comunicativo del PD, che naturalmente ha avuto un'incidenza grandissima sull'andamento della campagna elettorale, perché in fondo il PD dovrebbe essere un po' il driver della campagna elettorale, essendo il partito che si presuppone essere di maggioranza relativa, diciamo. Stefano Folli, voglio sentire anche te su questo, e ripeto anche su quello che diceva Annunziata, che mi sembrava, insomma, bello forte, appunto. E sono questi stati ben centrati. Insomma, il Partito Democratico si aggrappa al porcellum, alla legge elettorale che alla Camera prescrive uno smisurato premio di maggioranza, perché altrimenti staremo a discutere di un disastro. La speranza che il prossimo Parlamento non sia ingovernabile è dovuta al fatto, in buona misura, al fatto che esiste alla Camera questa valvola di sicurezza di questo, cioè, questo premio che è stato tanto giustamente contestato, una legge elettorale pessima, che però in questo momento paradossalmente è per il Partito Democratico, che ha fatto una campagna come se fossimo ancora nell'Italia di 30 anni fa, è il suo gancio a cui appendere le sue speranze di stabilità. E per il resto è così. Io aggiungerei una cosa: mi ha colpito uno degli ascoltatori che parlava dell'imprenditore. Ecco, l'elemento che colpisce in questa campagna è come le forze tradizionali nel Veneto, in Lombardia, ma soprattutto nel nord-est, il famoso mitico nord-est, il reticolo delle piccole e medie imprese, sia completamente disilluso e pronto a esprimere un voto di protesta, di forte protesta contro il sistema. E questa è una impressione che hanno tutti coloro che conoscono quelle realtà, ne è stato scritto, ne è stato visto, probabilmente la realtà è ancora... E tra l'altro Stefano, non è un fatto nuovo per il Veneto, peraltro. No, non è un fatto nuovo, per nulla, è una costante di questi ultimi decenni, ma adesso in particolare siamo arrivati un po' a redderazione, ma perché abbiamo un sistema politico ingessato, come è stato detto, abbiamo un livello di protesta e di voto antisistema che probabilmente sarà il più alto nella nostra storia, e abbiamo questi imprenditori, questi personaggi che vivono e lavorano nell'economia reale, che sono protagonisti di questa insofferenza, gravissima insofferenza. Ecco, questo è un elemento molto importante per il Partito Democratico, per riprendere il tema che è stato toccato adesso negli interventi, non essere riuscito, ma forse nemmeno sapersi porre il problema di capire lo stato d'animo di chi lavora nella piccola e media impresa, di chi lavora, di chi produce, se non porsi il problema di ricostruire una rete di consenso, quello che una volta la sinistra chiamava il blocco sociale, ecco, e lasciare che questo blocco sociale si riproduca, si ricostituisca intorno, che so, a Beppe Grillo o comunque a chi contesta radicalmente il sistema, questo a me sembra un elemento di grande rilevanza di questi ultimi giorni della campagna elettorale ed è un motivo di profonda riflessione, vabbè, per chi guarda la politica, per gli osservatori, ma soprattutto per chi la fa, la politica, chi dovrà fare nel prossimo Parlamento. A proposito di questo, a proposito del blocco sociale, abbiamo trattato molto questo tema, ve lo ricordo, se volete andarvi a riascoltare la nostra puntata di lunedì, ci siamo occupati esattamente delle partite IVA del popolo, dei piccoli e medi imprenditori di fronte al voto, è la puntata di lunedì della settimana scorsa, è anche una buona occasione per andare sul nostro nuovo sito www.radio24.it. Luca Sofri, direttore del Post, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Luca, un giudizio generale innanzitutto, ti chiedo che il giro di opinioni che abbiamo fatto all'inizio, una breve ma brutta campagna elettorale, che dici? Sì, dico di sì, naturalmente quando si fanno le riflessioni sulle brutte campagne elettorali bisogna sempre ricordare che le abbiamo probabilmente definite brutte tutte quante e bisogna, diciamo, riuscire a fare uno sforzo che non è facilissimo da fare per nessuno, di astrarsi comunque dai propri giudizi su una parte o sull'altra e di provare a vedere le cose dal di fuori e da un punto di vista più obiettivamente giornalistico. Ecco, diciamo, provando a fare questo sforzo, sì, io condivido questo giudizio che una campagna elettorale molto povera, molto noiosa, molto deludente, in cui i due elementi eventuali di novità nel quadro politico elettorale, che ci sono senz'altro, perché bisogna anche dire che la campagna elettorale è stata molto noiosa e poco eccitante, quanto indubbiamente i prossimi lunedì e martedì saranno delle giornate dal punto di vista giornalistico invece molto interessanti, perché porteranno inevitabilmente delle grosse novità e delle grosse sorprese, e ci sono ancora delle incognite. E i principali protagonisti di queste novità e sorprese, che sono naturalmente il movimento di Beppe Grillo e naturalmente, diciamo, il nuovo partito di Monti, hanno molto deluso in questa campagna elettorale. Mario Monti ha abbandonato completamente tutta l'originalità e la novità del suo personaggio, del suo ruolo nella politica italiana, quello che era stato appunto da capo del governo, abbracciando tutti i cliché più banali della retorica della demagogia elettorale. Oggi ho visto addirittura un titolo sulla nuova Sardegna in cui pare, poi non so come ha fatto, come ha sintetizzato il titolista, ma insomma in cui Monti avrebbe detto vorrei essere sardo, insomma tutto quello che era stato ricca di inventiva e originalità, la comunicazione di Monti quando lui è stato appunto il capo del governo in quelle condizioni straordinarie si è persa completamente. E mi pare si sia persa molto anche intorno a lui. D'altro canto, il movimento di Beppe Grillo in questa campagna elettorale ha proposto piazze gremite, che sono sicuramente un elemento interessante e rilevante, ma dal punto di vista del contenuto e dei contenuti della campagna non ha comunicato altro se non la consueta efficacia comica, gigionesca e strillata del suo leader, che sì, funziona sempre, tant'è vero che ogni programma televisivo se lo contende e cerca di averne un pezzetto, malgrado quello che poi lui dica della sua assenza alla televisione. Però dal punto di vista dei contenuti della campagna elettorale, appunto questi due, che dovevano essere gli elementi di novità, hanno detto poco. No, è inutile dire naturalmente di quanto poco hanno detto invece, diciamo, gli elementi più tradizionali della campagna elettorale, cioè i partiti maggiori e che già c'erano. Intanto saluto, ma insomma credo che abbia già attaccato, Lucia Annunziata, che insomma aveva un impegno. Voglio sentire qualche altro ascoltatore. Saro, che ci chiama da Messina, buongiorno. Buongiorno carissimo amico, buongiorno a tutti i suoi ospiti. Niente, il mio intervento voleva essere semplicemente una puntualizzazione sul modo di presentare, diciamo, questa campagna elettorale da parte della classe alla quale lei appartiene. Io ho sentito molto parlare prima del tormentone delle alleanze, Vendola, Monti, La Lega, Berlusconi, e parlare di questo, parlare dell'altro, ho visto anche dei sondaggi fasulli. Faccio un esempio, se mi permette, quello di Vespa. Non è possibile che tra Mannheimer e l'altra c'erano 10 punti per un partito sempre a favore di uno e poi scopriamo che la signora è praticamente l'istituto di fiducia di Berlusconi. Quanto a quest'ultimo, se questo falsa tutto, carissimo, quanto a quest'ultimo vorrei dire una mia personalissima impressione, anche suffragata da dati miei, non è affatto vero che abbia il 20-25%, questi non arrivano neanche al 17-18%. Il motivo per cui non vogliono fare il confronto elettorale, che lui lo vuole fare adesso perché non lo voleva fare prima, lei ricorderà, con Rutelli o con altri. Grazie carissimo Saro, non sappiamo di quali dati sia in possesso, comunque se ce li avesse veri non potremmo diffonderli comunque. 9 in punto. Sentiamo dopo il carissimo Saro qualche altro ascoltatore, in particolare Luca, che ci chiama da Modena. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Allora, io volevo dissentire un attimo su quello che avete detto fino adesso. Cioè, secondo me questa in realtà è una campagna elettorale stupenda. La faccenda è molto semplice, è la prima volta che si prende seriamente, quindi si diffonde un'ideologia diversa di un rapporto tra il cittadino e il fisco. Non so chi vincerà, che cosa farà, però è la prima volta che se ne parla in modo politico, quindi è entrato nel mondo italiano per la prima volta questo concetto che il fisco ci sta ammazzando, perché prima fondamentalmente si viveva in un'ottica di rapina, molto più semplice, cioè si sapeva che qualcuno veniva preso, veniva ucciso e la cosa finiva lì, ha capito? Chiarissimo Luca. Claudio Velardi, anche questa è una bella valutazione, devo dire, un aspetto al quale sinceramente non avevo pensato, e anche per questo che vi vogliamo sentire. Insomma. Diciamo, io non arrivo a dire che tutto quello che accade appunto è stupendo, però segnala la cosa che dice l'ascoltatore, un problema vero che, visto diciamo nell'ottica in cui un po' ne stiamo parlando noi, conferma semplicemente il totale scollegamento tra la società nella quale maturano tante cose, compresa per esempio una diversa visione del fisco, compresi fenomeni elettorali la cui misura poi vedremo domenica prossima, è un sistema che invece se ne frega. Questo è il punto fondamentale. Per questo a noi la campagna elettorale appare molto brutta, perché il sistema non interloquisce con questa società che invece sta cambiando, si sta modificando. Questo è un po' il problema di fondo. Noi dovremmo tenere presente una cosa, io mi riattacco un po' alle cose che diceva prima Folli. Quest'anno, se andrà bene alle due coalizioni principali, le due coalizioni principali prenderanno intorno al 60-63% dei voti, se gli va bene, mentre nel 2008 ne avevano presi l'83% e addirittura nel 2006 ne avevano preso il 98%, sono dati clamorosi, cioè significa che il 40% dell'elettorato non starà dentro le due principali coalizioni in un sistema che si ostina a definirsi sistema bipolare e che nei fatti non lo è. I due partiti principali, si tratterà del PD e di Berlusconi oppure del PD e di Grillo come sempre, andranno sotto il 50% insieme. Il principale partito, sempre stando ai sondaggi di qualche giorno fa naturalmente, dovrebbe prendere intorno al 30% dei voti e il 30% dei voti con il 20% di astenuti sono il 23-24% della popolazione italiana e con questo 23-24% il PD o il primo partito prenderà alla Camera la maggioranza assoluta. Ci rendiamo conto dell'assurdo? Questo è il punto, per questo poi questa campagna elettorale ci pare come è, quantomeno appunto totalmente scollegata, totalmente scissa rispetto alla società. Questo è il tema di fondo che in fondo anche l'ascoltatore un po' metteva in evidenza con l'esempio che faceva relativo al fisco. Voglio dire un'ultima cosa, chiedo scusa, sì, sempre per prego, segnalare prego. In che assurdità noi ci troviamo, in quale paese democratico del mondo è possibile che non si faccia un confronto televisivo tra i candidati o magari radiofonico, perché no, insomma tutto sommato tiro acqua al mio mulino. Stefano Folli, e però l'ascoltatore di Modena diceva secondo me una cosa interessante, quelle che erano alla fine le parole d'ordine del Berlusconi del 94 stanno iniziando a far breccia anche in altri pezzi del sistema politico. No, ma il quadro è quello che ha detto adesso Velardi, condivido al 100%, qui siamo in una specie di fortino. Non noi, non noi personalmente, diciamo noi, la società politica diciamo tradizionale, sta in una piedi fortino e non si rende conto di quello che sta succedendo fuori. E questo è anche la doppia percezione della campagna elettorale, brutta o meno brutta. Meno brutta da parte di chi ha la sensazione che comunque sta portando avanti un assedio vittorioso alla cittadella fortificata della vecchia politica. La cosa naturalmente non mi piace, nel senso che vedo i rischi gravissimi dello scenario che si sta descrivendo, che potrebbe scoppiare tra il 24 e il 25 febbraio, vedo i rischi di un Parlamento che potrebbe non essere governabile, vedo i rischi soprattutto di una grande avanzata di forze antisistema che poi non sanno in realtà come ricostruire il sistema, quindi tutto questo mi preoccupa. D'altra parte questo è anche produce anche questa cosa che dicono gli ascoltatori, si parla di fisco, si pongono problemi nuovi in forme nuove e rispetto a tutto questo la risposta della vecchia politica è insufficiente, abbiamo detto. Il problema del mancato confronto tra leader in televisione, tu dici giustamente anche in radio, ma certo la radio è uno strumento straordinario, però il fatto che manchi una cosa che esiste in tutti i paesi occidentali, tutti, un confronto tra leader in TV che possano parlare direttamente all'opinione pubblica e mettere a confronto le loro opinioni, tra chi? Grillo fa la parte che fa rispetto alle televisioni, sappiamo benissimo, è stato criticatissimo, io l'ho criticato, mi sembra uno sfuggire a quello che è il sale di qualunque democrazia che vuole formare un'opinione pubblica e non permettere a un leader semplicemente di rivolgersi al suo elettorato come se parlasse soltanto a dei sudditi, ma il fatto che non ci sia stato anche da parte della RAI, da parte di chi aveva la responsabilità, la sensibilità di imporre delle regole e di far fare questi confronti quando era possibile, il fatto che si riduca a 5 giorni dalla fine della campagna a discutere di questa cosa è incredibile. E come è stata per la legge elettorale? Se ne è discusso in maniera mistificatoria ed estenuante fino agli ultimi giorni, dando a intendere all'opinione pubblica che era possibile fare in extremis una riforma della legge elettorale quando era palesemente già tutto fallito. Adesso si sta ripetendo la stessa cosa, si discute di questo confronto televisivo quando è evidente che non è un'ulteriore mistificazione. In chiusura, Luca Sofri, tu lo ritieni così fondamentale il confronto televisivo? No, a dirti la verità no, ritengo che sarebbe un'occasione straordinaria di televisione, di divertimento, di appassionarsi di tutti noi, così come sono stato divertente e appassionante il confronto delle televisivo sulle primarie, eccetera, però io non penso che sarebbe una cosa particolarmente rilevante nel formare il giudizio degli elettori o nell'orientare il giudizio degli elettori rispetto a quello che gli elettori già sanno, conoscono delle forze in campo. Ecco, dopodiché sono certo molto favorevole che si faccia, perché penso che sarebbe molto interessante, appunto, sarebbe molto interessante per ragioni un po' televisive, un po' letterarie, un po' di curiosità diverse, un po' anche per lealtà, insomma, perché non si capisce perché ci si deve sottrarre a una competizione, e quello che si sottrae di più, come ha giustamente sottolineato Folli, è Beppe Grillo, ma lì, diciamo, nel sottrarsi addirittura a una candidatura nel movimento di cui è il leader, si vede che c'è qualcosa anche di evidentemente di psicologico e proprio suo rispetto al confronto con gli altri e al conflitto diretto, ecco. Però non credo che sia, diciamo, un elemento importantissimo e imprescindibile per formare le opinioni, ecco. Capisco che sei in chiusura. Grazie. Sì, siamo in chiusura. Grazie Luca Sofri, Stefano Folli, Claudio Velardi, grazie anche a Lucia Annunziata, grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. 9 in punto.